Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1836. Si diffonde il colera, migliaia di morti dalla Lombardia al Regno delle Due Sicilie. Battaglie ad Alamo e sul fiume San Jacinto, il Texas guadagna l'indipendenza dal Messico. A Roma ha scoperto una congiura della giovine Italia, arrestati in 17. Un libro di fiabe fa impazzire la Danimarca, sono quelle di Hans Christian Andersen. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Una terribile epidemia di colera ha iniziato a colpire l'Italia con il ritorno del caldo dopo che le prime avvisaglie si erano già avute l'anno scorso. Secondo stime ufficiali, in Lombardia ci sarebbero almeno 30.000 morti dovuti al morbo e migliaia sono le vittime anche nel Veneto e nel Regno delle Due Sicilie. Nemmeno il Regno di Sardegna ha smesso di pagare il suo tributo di sangue all'epidemia dopo che già l'anno scorso si registrarono oltre 2.000 morti solo a Genova. Il colera ha iniziato anche a colpire lo Stato Pontificio, in particolare le zone dell'Emilia e delle Marche. E ora andiamo negli Stati Uniti con un documento sonoro straordinario che il Gazzettino del Risorgimento è in grado di proporvi. Come potete sentire, sono suoni di battaglia che arrivano direttamente dal nord del Messico, una zona che la popolazione di lingua spagnola chiama Texas e quella di lingua inglese Texas. Sono i suoni dell'assedio che l'esercito messicano ha portato ad un convento nella zona di Alamo, dove un gruppo di circa 200 ribelli di origine statunitense ha resistito per 2 settimane a 1.200 soldati. Il convento di Alamo ha infine capitolato, ma la notizia ha rinfocolato la rivolta. I messicani sono stati sconfitti definitivamente presso il fiume San Jacinto e il Texas, ora si chiama così, si è dichiarato indipendente. Ancora repressione antipatriottica in Italia. I capi delle rivolte degli anni scorsi sono tutti all'estero, ma stanno pianificando nuove azioni. A questo proposito, Giuseppe Mazzini, fondatore della Giovine Italia, ha fondato l'anno scorso un nuovo movimento, la Giovine Europa, che sta coalizzando molte forze. Intanto 17 aderenti alla Giovine Italia sono stati arrestati a Roma. C'è la storia di una piccola e povera venditrice di fiammiferi che muore nella notte di Capodanno dopo uno strano sogno. C'è quella di una piccola e brutta anatra che scopre di essere un cigno. Ce n'è una che racconta di una principessa che non si accontenta mai. Sono raccolte in un volumetto pubblicato alla fine dell'anno scorso da Hans Christian Andersen, scrittore danese di cui a Roma ricordano un breve recente soggiorno in Via Sistina e che sta riscuotendo grande successo. A differenza dell'opera dei fratelli Grimm, non ha però esattamente attinto alle fiabe popolari. Non solo almeno, ma c'è una forte rielaborazione personale. Questo evidentemente piace. Ed è tutto. Sul nostro sito potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook. Lasciateci un commento, come sempre, o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è sempre gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.